è lo stato in corso, caso so. La verità. Ho legato con due capi direttamente dalla batteria del fiorino. Ne vuoi sentire una? Allora, quando ero in campagna, quindi terreno privato, non è che potevano... Ho provato il 27 con l'antenna tarata a chiamare, il 27, e come premevo la portante sentivo proprio non rientri di RF anche gravi. Io ho detto no, qua prima di sfasciare tutto, rimanere se ne ascolto e buh. Capito, una cosa allucinante, eppure il cavo dalla batteria, tutto quello che vuoi, il motore era spento, non c'erano rumori strani, e quindi che l'accendesse il motore o no, in trasmissione non usciva, sentivi questo trrrr, qua si sfascia tutto, lasciamo perdere, questo è un barrasone antico, e non sarà abituato all'uso veicolare, certo, non è per quello, eh. Ah beh, a volte sì, se proprio la parecchia agganciabile così. Sì, attaccato a Europa. Ci sono stato anche a Usico io con cosa? Con Gianni Bravo 2 una volta, con 140. No, il suo 80 ero salito sopra. C'era l'antenna, lui agganciata alla macchina sua. Siamo saliti su a Usico. Ogni ricezione che c'è di gara. Come schiacciava sembrava di essere al telefono. Sì, se vai in quella specie di, cos'è, una specie di piazzetta che si affaccia, anche Gianni ci andava, si affaccia un po', come dire, panoramica, non so bene, non l'ho mai vista io di persona, se l'ho vista me ne sono dimenticato, e dice che lì c'era un'ottima ricezione, era mostruoso, poi lì sei molto più in alto di scala di ciocca, sei più in alto, vero? Sì. Lì a Usilo, sì, alla Collinella, dove ci sono più dei ripetitori, c'è quella specie di chiesetta. Ah, che Vittorio ci va spesso lì. Vabbè, adesso è da parecchio che non ci sta nessuno. Di solito dovrebbe dalla parte più su di casa sua già l'hai vista. Io avrei voluto provare un giorno invece da Florinas c'è un punto particolarmente alto, no? Già da Florinas, non tantissimo come Usilo, però c'è un punto particolarmente alto e mi sarebbe piaciuto dalla macchina con l'antenna classica a 1,5 metri, no? Anche da liscio chiamare, provare a chiamare che non c'è più nessuno a Sassari, tantomeno stazioni anche degne di nota come poteva essere Claudio, non ce n'è più. A seconda di chi chiami non ti sente nemmeno Sassari, capito? Non tutti hanno antenne alte o ben messe o roba del genere. Tu vabbè, tu sei in alto, tu lo riceveresti a occhi chiusi, Florinas. Vabbè, Florinas ci sono vicino, anche se sono tappato. L'unico punto, guarda, dove vuoi. Bisogna andare a Florinas, basta che te ne vai solitari, ti metti lì. Andrea parlava con Villacito, già te lo ricordi, dalla macchina, con la 1, però aveva il Superstar 3009 col 550 modificato, il lineare, il B550. Si metteva lì solitari, adesso c'è un... Prima era tutto campagna, tutto villette lì. Si metteva e parlava tranquillamente con Villacido. Anche con cosa, con quel ragazzo che abitava lì vicino a lui, avevo sparato l'antenna, se te lo ricordi. Quel ragazzo che era, prima abitava a Sassari, poi si era andato in quella zona lì a abitare. Gli ha fatto l'affare. E chi era? Non me la tipo, non me ne ricordo adesso. Sono stati tanti anni. Quando parlavo, figura che è entrato nel periodo che entrava Giaguaro di Sassari, Battistino, modulava Monica, la figlia. E questo qui era, se ne pratica innamorato della figlia quando l'ha sentita. Hai capito? Mi sembra che era Antonello Selvaggio di Rottini, se non mi ricordo male. Ehi, Io poi, vabbè, nemmeno ancora me ne ricordo. Ti volevo dire, ma poi che fine aveva fatto Clementina, stava lavorando a Sassari? Io penso che non l'ho mai vista di persona, se me la indicassi non la riconoscerei, per dire. Dove lavorava lì? Lì è professoressa lì all'industriale di elettronica, già lo sai. Io l'ho conosciuta perché mi aveva chiamato un giorno quando ho finito lì in Africa. Ero stato promosso, ma mi ha chiesto, ce l'hai ancora il libro di elettronica? Ho detto, certo che ce l'ho, detto, vieni, te lo prendi a casa. E l'ho conosciuta, bionda con gli occhi celesti, capito? Poi non l'ho più sentita, né la macchina né niente, però so che in pratica era diventata professoressa lì al corso. All'industriale di elettronica, quello che già me lo ricordo ancora, suo, figurati, come si chiama, te lo ricordi? Eia, ricordo anche che aveva un bip brutto, unico, solo lei ce l'aveva, ma non ho mai più sentito nessun baracchino. Era l'unico che ce l'aveva lì, infatti, la riconoscevo anch'io, era un bip smorzato, era. Non solo avere questa era tutto strano, era. Sì, non saprei nemmeno imitartelo, boh, facciate un ciò, una cosa brutta, però vedi, unica al suo genere. Vabbè, quella c'è perduto qualche notte di sonno. Era una bella ragazza quella. Allora, era a dubbio. Lì abitava, mi ricordo ancora, proprio vicino a questo di Gazzara. Tu immaginati che i servizi sociali sono in Gazzara, lei 200 metri più su dei servizi sociali. C'è proprio la palazzina e c'è scritto Concomi, c'è scritto. Per sbaglio un giorno gli ho detto, adesso ho capito, detto, dove abita. C'aveva l'antenna, dove ce l'aveva, nel terrazzino dietro, non dalla parte dalla parte di Gazzara, ma dalla parte di Via Prezzetta. Sì, praticamente Via Zara, tu ti fai Via Zara, svolti e fai via Pasubio, sì. Che c'è un laboratorio di analisi anche. E lì, tra proprio come svolti, lì ci doveva essere lì. E non arrivava nemmeno forte il segnale, e per essere così vicino arrivava discretamente bassa, a bassina. Già arrivava bene, io mi ricordo con la che non c'avevo io, mi sembra il segnale 9 arrivava, però già arrivava bene. Una o due notti adesso ci ho passato alle 3-4 del mattino di bestemmia a Giampiero, lì, una volta mi ha tirato quelli che avevamo tutti due nella stessa stanza, giù, a casa di mamma. E figurati, certo, mi ha tirato il coso, mi ha tirato il cuscino a testa, mi ha tirato Giampiero. O spegni il barattino, mi ha detto, o se no te ce lo vogliate ad ammazzo, ma allora ho preso lo spento, c'era poi c'era babbo che si lamentava, mamma, perché sentiva il bip, capito? Il bip era una cosa allucinante. Figurati, avanti a tu. Antonio, avanti, buonasera. Vabbè, forse sta facendo roba anche lui, da appena già rientra. Piuttosto, Antonio, sono senza orologio, senza cellulare, senza niente, mi puoi dire che ore sono? Sono le 20.03. Le 8.03. E gli alle 8.03. Perché oggi devo mettere assolutamente una lavatrice, me ne stavo dimenticando, ogni ora me ne dimenticavo, sennò quella roba è un po' prioritaria. E quindi a breve, brevissimo, e per oggi abbiamo concluso. La smalizzo. Ecco. Avanti. Buonasera. Ciao Anzu, ehi, ti avevamo rilanciato, forse ti eri sentato un attimo. Stiamo così scazziando e Antonello, rievocando i bei tempi, eccetera. E non c'è nessun altro, dopo Rum c'era, ma chiuso, stavo uscendo che doveva fare karaoke. Avanti per Antonello, per Antonio. Ciao Anto, mi hai sentito bene, ascoltato. Avanti, riprenditela. Ehi capa, ciao Antonello, buonasera, mi hai sentito. Ascoltato, quindi io 10 minuti e potevo scappare perché devo fare Roma. Allora, tutto a posto? Ehi, cazzo, me l'ho freddo su Manzano quando ti ho visto. Cazzo, me lo vedo un calente, me lo metto giù. Poi alle 11 ho cominciato a fare caldo, a far cuffia, forse perché mi sono scaldato, perché mi sono messo a cammellare. Ma faccio un freddo, ma un freddo mica a quell'ora lì stamattina. Siamo stati 9-4, non ci siamo visti. Non mi ricordo adesso. Stavo buttando la bombola alle parrucchiere lì. Sono un pestato, sono un pezzo. Che già lo credo. Sei lavorato fino alle 8 già la stamattina, la voglia che sei stanco verso. Mica, quelle bombole che... come quella che ho fatto stamattina, io non riesco mai a sollevarla, non sono dato, figurati tu. Io già sei abituato, quindi sai come prenderle quelle bombole. E quindi non hai problemi. Se ne piglio uno o due, io sono già morto con quelle, con una oppure con l'altra. Ehi, è io lo stesso, io... A parte che non saprei già come prenderla, no, cioè, come prenderla in spalla, però poi la mia schiena è compromessa, è un problema per me, è un problema, ci ho anche provato a mettere la bombola piena, a giovane manco vuota riesco a mettermela in spalla e così è, tutto guasto sono. Io non credo che a 3 tacchi di mesa chissà, la bombola quindi c'è. Devi contare sempre il ferro, già lo credo che è pesante. Io porto anche quella più grande, porto. Com'è di segnale? Buono? Allora, aspetta che guardo. Ho gli occhiali per vedere da vicino, però li devo, ce li ho imboscati, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Allora, tu sei esattamente 9,25. Questo fondo scala va bene, 9,30, quindi 9,25. Già va bene, dai. Va bene, a tu me, e quando sto arrivando? 9,20 sei qua, fondo fondo. Sì, andrà bene. Già va bene, a Puglia, scappa. Puglia, dai, io devo scappare adesso. Mi ha fatto piacere sentirvi, dai. Ormai questa sera ci facciamo una bella chiacchierata. Ci facciamo e via. Adesso perché devo fare delle cosette in casa. Se no ero anche rimasto, dai. Sì, va bene, non c'è problema, quando vuoi. Va bene, allora ci sentiamo al limite domani, se tanto domani è domenica, quindi non devi lavorare, quindi possiamo stare a baracchino più di oggi, che non c'è problema. Avanti Marco. Sento un profumo di roba cucinata qua, chissà da dove arriva, da giù, e non so cosa sia, però è un bel profumo. Cosa volevo dire, Cantone? Lì della macchina, no, del baracchino in macchina, no, sai che uno guidando non dovrebbe toccare solo il volante e il cambio, no? Oppure avere 1000 occhi, stare attento che non ci siano pattuglie che passano, che te ritrovi dietro, a fianco, manco te ne accorgi. Però i president hanno la possibilità, questi president che ho, baracchini, no? Di mettere un microfonino per il Vox, microfono al condensatore, quelli con la spugnettina che ti attacchi al colletto della camicia, per dire, no? C'è uno spinotto che è micro, mono, micro, non 3,5, è quello più piccolo, 2, 2,5, quant'è? Solo che è un casino tararlo, perché ha 3 regolazioni, una è la sensibilità del Vox, e vabbè, quella è facile. Una è la durata del vox prima di staccare, perché o stacca subito o stacca tipo dopo un secondo, così mezzo secondo, te lo devi tarare bene. Se fai pause come facciamo noi ogni tanto tra una frase e l'altra, quello già sta staccando. E poi quello più problematico è che ha non da riduzione, puoi decidere tu quale livello di riduzione del rumore di fondo mettere, capito? Però una volta che tu, basta che ti metti in una strada trafficata, avete aperti, te lo devi regolare bene la ferma, però la volevo provare mi. Un giorno guidando in macchina, che vabbè, non c'è più nessuno, entri, chi chiama, con chi parli, con muro? Abusivo, pirata! Anche con Comane, ciao Natali! Credevo che fossi buon giro al mare, oggi era bella giornata. Ma non sto bene, no Marco, non sono andato da nessuna parte. Aspetta, ciao Natali, mi sembra aver sentito qualcuno da pronto, sei avanti? Ciao Pomponius. Buonasera anche a lei, ben ascoltato. Aspetta, mi viene in mente il nome. Perché ho solo punta della lingua, comunque gli ha capito che sì, che è quello che mi ha dato il sacco di mecco, per esattezza. Avanti Marco. Ho abbassato lo squelch perché c'è un po' di propaganda che va e viene, ma mi è sembrato Eugenio, il segnale sembrava un po' più bassino del dovuto. Eugenio, sei tu? Allora il segnale 6 modulato 7, ecco, modulando già sale a 7, però sicuramente come scalda pompa di più. Sì, io c'ho il vizio di alzare lo squelch per la propagazione, ogni tanto fanno questi americani gargarismi sul 10 e già ne fanno un poco di evoluto. Arriva anche splatter dall'11 quando mettono i kilowatt che fanno il Super Bowl. Cioè, l'altro giorno Antonio, il Natalino, sentivo uno splatter dall'11 dal canale a fianco. Questo americano è arrivato a toccare, anche se per breve cosa, 9+25 dagli Stati Uniti, ma chissà quanti kilowatt aveva pure sotto. Già lo so, già lo so. Dicono ario, sembra che dicono aglio, cipolle, prezzemolo, è proprio cibo. Quando stanno accordandomi con lineare, a me arrivano 9:20, 9:30, figurati, poi hanno un audio allucinante, figurati tu, avanti Natale. E quindi ce ne sono andati tutti, se manco io non entra più nessuno qua. Poca gente sta entrando, perlomeno, io stasera sono entrato verso le 4, 4 e mezzo, ero sul canale 20, però stavo, c'è un po' in pratica un po' terrario dall'Ucraina, c'è lì, capito? C'è un ponte, ho chiamato e mi ha risposto a questo qui, dice sono in Ucraina, ma detto, cazzo, ho detto, con le bombe, detto, ti mettiamo a durare, per quello ti trovano subito, ragazzi. Non ho capito il genio. Avanti con la bella notizia. Fuori la 27, il potenza la 27 sta di nuovo soffrando. Nelle parti di piloti si stanno rigassando fuori dalla città. Cos'è che sta spopolando la 27? Cioè gli autisti stanno mettendo il baracchino o togliendo? No, si sta rispopolando la 27 fuori, in continente, sta rispopolando la 27 e tutti si stanno rispopolando il baracchino in camion. Oh, e come mai? Forse stanno l'applicazione, come si chiama? CB Talk, non la usano più. È più divertente la radio che non stare con sto cellulare. Anche perché ti mangia la batteria in modo drammatico con l'applicazione. Ti mangia i cosi, i giga. Sì, vabbè, ti mangia i giga. che però con le moderne, con i moderni contratti giga te ne danno a buttarne. Diciamo che devi stare con lo schermo acceso sempre, che c'è il GPS attivo perché il programma lo richiede. Mi ricordo che bastavano 2-3 orette di uso continuo e ti ciucciava la batteria. Vabbè, se uno è a casa c'ha il caricabatteria non c'è problema, tanto ormai esistono power bank, le macchine hanno le prese USB, magari il problema non si pone, così dai, non si dovrebbe porre. Comunque là, vabbè, non posso risentire il canale 5 pieno. In compenso qua è un mortuorio, al 23 è un mortuorio, il 12 è un po' più attivo la notte, quando io non ho voglia neanche di accendere. Poca roba per oggi, poca roba, no? C'è un saccaccio di gente che non sta più entrando. In estate c'è la scusa che tutti vanno al mare, vanno qua, in inverno c'è la scusa che tutti, non lo so, c'è sempre una scusa. Vabbè, la motivo è che ora io coincido così, perché quando coincido mi sono a casa un po' prima, io lascio più luce, vabbè, la mia è sempre accesa, io non la spengo mai, la mia la radio è sempre accesa, per non tenerla sempre calda. Come oggi io l'avevo appena accennato rispetto a stamattina, stavo spoverando, l'ho spento e niente, poco si è acceso. E purtroppo gli orari non coincidono con i buchi. Ma i 12 vanno per gli edifici. Sono 12, 2 o 3 persone, anche 4, anche Antonio, ogni tanto qua sul 12. È una rotta più tendente per Porto Torres, la zona Porto Torres e Sorso, più o meno, dai, come geograficamente siamo più verso Sorso forse, dai. Se ci metti, guarda, due ragazze che fanno la palacchina, tu verrai, la gente che entra. Torna al Pienone, questo dico io. Ma sono due ragazze di 18 anni, 20 anni, che non sanno cosa fare. E vedrai come entra la gente. I Curmain, eia. Ah, Antonio, poi mi sono ricordato, ma sai perché Clementina, che pure era vicina, arrivava bassa da me? Lei aveva un'antennina modesta, vabbè, però io ero nella vecchia casa, avevo una gran plane misera, messa bassa, ed ero completamente chiuso dai palazzi, ero in un fosso praticamente. Perciò arrivava bassa. Se fosse entrata adesso nella stessa posizione, ma io con l'antenna qua sul tetto, voglio sentirla bene. Beh, quello sì. Paola, se fosse entrata adesso, penso che sia la casa sia la sua, perché non penso che i genitori siano con la wifi, quindi penso che la casa, che lei magari abita lì con marito, non so se si è sposata, penso che il barattino ce l'abbia ancora, magari ce l'aveva conservato, ma penso che ce l'abbia ancora, magari ci ascolta, niente di strano, amico, non sa cosa fare, magari c'è un bericetta che si mette a fare gli usi, qualche ragazza mi guarda, non ti credere, io quando abitavo a Centro Storico, sai quanto ne entravano ogni tanto di ragazze, cioè cibi vecchi, entravano, salutavano, poi ciao, ci sentiamo un altro giorno, capito? Allora vabbè, c'era ancora la gente, quel periodo lì, quando io abitavo tanto subito di Emanuele, poi sono salito in via San Donato, da lì avevo pizzato la lampada, però non è che uscivo più di tanto, capito? E mezzo vicino al muro ce l'avevo, però diciamo che gente ce l'era ancora. Poi quando mi sono trasferito qua è cominciato a calare, capito, la 27. A Riccardino, lo trovo a piazza con la bella stazione, un ragazzino, era in gamba Riccardino. Mi ricordo, però non lo so, c'erano state qualche bisticcio, credo, poi gli volevano accollare colpe che non aveva della portante, quindi avrà capito come l'antifono in radio e ha detto meglio niente. sentite questo all'11. C'è sua roba di splatter, ogni bozzi. Questi di detto vanno a kilowatt, Antonè. Vanno a kilowatt, non vanno a watt, quelli del Super Bowl. Certi non sono come noi, non hanno limite di svantaggio, capito? Nelle radio. Posso usare anche le radio della polizia, tranquillamente. Cazzo, c'è uno sull'11, l'altro è sul 9, quindi io siamo in mezzo. Quello che c'è in mezzo, quello che c'è sul 9 parla spagnolo, è dalla parte del, deve essere i messicani, non lo so, comunque parlano spagnolo, invece quello che c'è sull'11 è proprio americano, c'è una voce allucinante, arriva a 9 più 20 qua. Natalino, puoi riprendere? Sì, sono qui, è che Eugenio non lo sentivo per nulla qua, è incomprensibile, mi ha dato questa modulando dalla macchina. Eugenio, il Natalino lo copi? Sì, lo sento, non lo sento. Stai salendo di watt adesso sei quasi 9-10, può fare 9. C'è Eugenio, ti arriva 9, quasi 9-10 adesso. Cavolo, vabbè, tu sei in alto, Antonio, sei bello libero, ma c'è una bella posizione tu. Io sono penalizzato, Natalino però ancora peggio, peggio. Io sì, lo copio, però c'ho questi splatter terribili dall'11, c'è quell'animale che quando... 9-15, 9-20, ma... La stessa cosa arriva a me, quasi 9.20 arriva, poi c'è invece un altro, c'è sul 9, deve essere messicano, perché parla spagnolo, arriva a fonte, figurati, una volta solo è riuscito a parlare con Kentucky, ma io ti parlo in via di zitto, sta via di zitto proprio, cioè, con la via 27L, perché c'avevo solamente quella. Provato a chiamare ma aveva risposto, forse per culo, non lo so. Era un giorno, era una cosa molto strana, era, se ti ricordi, tanti anni fa, se incominciava a fare pioggia con i fulmini e i tuoni, la propagazione saliva. Se c'era cielo sereno, col cazzo c'è la propagazione. I misteri dall'etere. E avvero me. Infatti già una lì con l'effetti 250, cazzo mi sono avviato questa scossa, cazzo, non te lo dico nulla, perché è sceso il fiume lì di fronte al manicomio, cioè proprio dove c'è il manicomio, perché lì ci sono i parafulmini in quei caseggianti, è sceso proprio lì vicino al pino che siamo di fronte. Ho sentito questa scarica, avevo le cuffie, cazzo, c'avevo un microfono a tavola con effetti 250, c'avevo l'SB, ho dovuto mollare il microfono e buttarlo per terra, perché mi ha dato la scossa, ho capito, mi ha fatto dentro di... hai capito? Dopo mezz'ora sono entrato, gli ho detto, vai a mettere, non si è appigliato fuoco l'apparecchio, poi entro, ho aspettato quasi una mezz'ora per entrare. Ma come l'hai fatto la radio? La schicchiata dalle valvole. Mi ha dato proprio la schicchiata al microfono, capito? Perché non c'era massa a terra lì, in via di zitto, capito? Hanno fatto rientro di quel fulmine, in pratica mi è entrata nelle mabbia di impiego, in pratica, capito? Sì, perché credo che il fulmine lì dove cade, nelle immediate vicinanze, è come un EMP, con un impulso elettromagnetico, cioè ti frigge, soprattutto questi baracchini che sono tutti microcircuiti, microintegrati, ti frigge tutto. Non è questione di avermi fritto, è questione, già se lo ricordo, a Natalino. Allora, il fritto di 50, io ho due antenne collegate sopra il tetto, c'è una in trasmissione e un'altra ricezione. In pratica le fritte 250, siccome Massatella non ne avevo, scaricava su nel tetto, hai capito, tramite la IPL. E quando mettevo le cuffie, se andavo a toccare la carrozzeria dell'apparecchio, mi sentivo appena appena nel corrente, sarà stata a 110, una cosa del genere. Quando sceso quel fulmine, cazzo, mi è trovato il coso indietro, dove c'era il microfono, mi ho toccato la canzone del microfono, cazzo, ma questa schietta mi ha paralizzato la mano per 5 minuti, mi hai capito? Infatti sono rimasto scioccato un po', ho preso e ho mollato tutto, poi ho mollato il microfono in terra, la tuvera, l'SP che avevo, mi quello nero. Poi ho preso e scelto a provare se c'è trasmissione, ma al comando non è successo nulla. Infatti vabbè, per quanto può servire quando vedo fulmini, quando sono qua le tempeste di fulmini in città, io stacco l'antenna, ma se scendere si porta via tutta la roba elettronica, tutto si porta via, di tutto il palazzo, anche in quelli adiacenti. E infatti, una volta è sceso in campagna mia, il fulmine mi ha fatto un danno, anche a 80 metri dove c'era la pompa sommersa, è entrato, cazzo, mi ha crepato il motore della pompa, ne l'abbiamo dovuta salire da 80 metri, infatti rugonto. Mi sto facendo roba di computer, Marco. Assemblato, torre? E io me lo sto facendo, mi è arrivato già l'alimentatore da 650 watt. Mi deve arrivare scheda madre, processore, RAM, scheda video. Me lo assemblo, perché questo non lo posso smontare, che mi serve per farmi le ricette delle medicine, o sai che mi mettano Windows 11 e non mi riconosca la stampante. Io metto Windows 10, ma dice che se lo mettono in automatico questi bastardi con le schede madri nuove. Schede madri, ma no, però tu, se te lo fai tu, scegli l'hard disk e sceglierai quello che mettere nell'hard disk come sistema operativo. Eia, però la Microsoft te lo mette a forza, mi Windows 11, non ti avverte neanche. Ah, così, ma non c'è una ISO da scaricare e installare di Windows 10? Cioè, non so se le fanno ancora scaricare, installare e configurare tutto. Poi per la licenza non so come funzioni, e io praticamente compravo tutto già pronto, ecco. Non so come funzioni per la licenza. Ma io ce l'ho anche qua, Windows 10. Ho clonato l'SSD, ne l'ho tolto da qua e gli ho messo il disco meccanico, tanto già mi basta per fare quelle poche cose da ufficio, diciamo così. L'altro invece è da combattimento. Capito, quello lì io gli metto Windows 10, no? Però vedrà che mi mettono Windows 11, è già successo a un amico che gli hanno messo, è già due anni questa cosa qui, fra sette mesi Windows 10 non gira più. Mi pare che nel 2025 non ci sarà più supporto. Beh, poi si vedrà. Il computer mio era predisposto, infatti ogni tanto arriva il messaggio, dice se vuoi, quando vuoi, dice il tuo computer è pronto per ricevere Windows 11, e io per adesso mi tengo il 10, se no mi comincia a non riconoscermi la stampante, periferiche varie che ho preso, ho capito. Infatti io vorrei che questo computerino attuale morisse con Windows 10, ce lo tengo finché, certo, ho tanto antivirus, anticoso, firewall, in modo da resistere a eventuali falle, dai, sperando. però se voglio Windows 11 lo prenderò fra qualche anno con, o fra quello che ci sarà Windows 12, con un altro computer, capito? Questo voglio che muoia con Windows 10, è nato con quello e va bene con quello. E Windows 10 va benissimo, non bene. Cosa ti volevo dire? No, te lo metto una forza, sei predisposto il computer. Il mio è perché c'ha 23 anni il computer e non è predisposto per Windows 11, quindi questo vedrai che mi si blocca. L'altro invece, quello che sto per fare, quello lì è logico che essendo predisposto di rubare una forza va a Sardi e dice che non conosce nulla mi. E poi è un sistema operativo del Kaiser, mi ha detto il dirimpettaio, capito? Ma dipende, l'Atari, ogni sistema operativo nuovo che esce tutti sono diffidenti, dico era meglio l'altro. Comunque per adesso Windows 10, allora per i PC con Windows mi pare che 2/3 dei PC attualmente funzionanti, quasi 2/3 hanno ancora Windows 10. E il mio c'ha Windows 10 per esempio, funziona benissimo, addirittura l'ho clonato dall'SSD, no? E lo sto usando perché l'SSD mi serve per l'altro computer, se no mi toccava comprarmi anche un SSD. Io no. E anzi adesso devo staccare anch'io perché mi stavo dimenticando che devo fare una lavatrice, assolutamente. Eugenio, adesso modulato sei arrivato anche a 7,5 e quindi come scalda stai cominciando a pompare di più. Ed è la propagazione che dà problemi, se no se fosse pulito arriveresti meglio. Va bene. Buona carica Eugenio, buon tutto, ci sentiamo appena possibile. Natalino, idem con patate, grazie delle icone che mi mandi la mattina. Antonello, idem con patate, ci sentiamo e ci vediamo quando capita, dai. Ho dimenticato qualcuno? No, mi pare di no. E Capala, riprendo io per salutare a tutti, anch'io me ne vo. Ci sentiamo alle prossime, dai, cercherò di entrare perché non mi sento bene in questi giorni. E non stavo entrando per quello, ero sempre coricato, mamma mia. Vabbè, là, ci sentiamo alle prime, salutoni a tutti, là. Ciao Eugenio, ciao Marco, ciao Natalino, ci sentiamo, là. Adesso mi accendo un po' di televisore, me lo guardo poi mette cuoco. Ci sentiamo domani, statemi bene. Ehi Natalino, io non è che sia in forma, assolutamente, diciamo, io non ho buone giornate, ottime, no, io dico che ci sono, personalmente, diciamo, giornate brutte o meno brutte certi giorni, però non posso dire di essere in forma. Tiriamo a campare, dai. Quando si invecchia la vecchiaia è carogna, va bene. Ok, ciao ancora Antonio, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ok, a domani, dai. Ciao, stavi bene.